1948, nasce lo Stato di Israele. L'esercito sionista trasforma in profughi 2/3 della loro popolazione palestinese. Ora, Israele è l'unico Stato al quale non sono riconosciuti i confini. Può espandersi quanto vuole, il territorio palestinese rischia di restringersi ai 7 km della striscia di Gaza, imposti dal muro della vergogna. Separo una terra senza più confine, identità precisa. Paramuri palestinesi, civiltà derisa. Strumentalizzata da estremismi religiosi. Da governo di sionisti, casa assai pericolosi. Stuprata dalle bombe dei missili americani. So di gente che va a letto col fucile nelle mani. Aggrediti nella vita materiale e spirituale. Ostacolato lo sviluppo economico e sociale. La Palestina piange da più di 60 anni. Lacrime di sangue, Israele che fa danni. Esercitando mafia e strategia del terrore. C'è un signore americano, capite popolo oppressore. Libertà di un popolo in catene che a vedere certe scene bolle sangue nelle vene. Parrami carrammate, rince case di famiglie, pa guerra e religione, ammazzano pace, madre e figli, e massacrano, rapinano cultura e tradizione di una terra senza pace né speranza e l'amore. Trasformato in odio dalla gente nella strada che con chiese e pietre in mano da sostegno all'intifada. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte. Odio il sionista e quell'America assassina che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte. Odio il sionista e quell'America assassina che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina. So di monti, so di case, di coloni, dove l'acqua si spreca e non arrivano i rumori, quegli orribili suoni. Son protetti da una reggia, laggiù invece la terra è assa e quel boato che già è l'acqua che sorseggia. Israele che saccheggia, una civiltà stressata che sta di terra bruciata. Politica sionista basata sul disprezzo e sul ripudio d'esistenza di chi fa la resistenza. E vicinito non sa se brula su casi Isa, decisa l'intifada come arma di difesa. E dall'Africa all'America Latina al Medio Oriente è nata una guerra globale permanente. Tornando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda che è più forte. Odio sionista e quell'America assassina che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina. Tornando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda che è più forte. Odio sionista e quell'America assassina che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina. Israele, Palestina, 60 anni di conflitto. Ogni giorno strage, io non posso stare zitto. Tra il vivere e il morire, il passo è breve. La situazione è sempre peggio, sempre più grave. Io penso agli innocenti che gridano vendetta, coinvolti in una guerra assurda c'è chi non accetta. Ti starsene a guardare, si imbottisce di tritolo. In nome della sua terra e del suo Dio prende il volo. E tu che lo condanni, lo chiami terrorista. Ma il sangue che provini sul suo popolo non ti basta. Fomenti accanimento contro tutto il mondo islamico, strumentalizzando il gesto di un fanatico. Che critico ma biasimo, il kamikazennesimo. Che muore disperato, male sempre pessimo. Per te solo un pazzo, per te un invasato. Ma quel ragazzo vede guerra fin da quando è nato. Cresciuto tra i soldati e lo sparo di un siluro. Pensavo al suo futuro che sbatteva su di un muro. Muro di vergogna, muro di sionisti. Ma tanto per buaci siamo tutti terroristi. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte. Odio il sionista e quell'America assassina che finanzia le barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte. Odio il sionista e quell'America assassina che finanzia le barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte. Odio il sionista e quell'America assassina che finanzia le barbarie sulla gente in Palestina. In Palestina.